La mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato. E voglio volare in basso. Cielo, dammi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Magliano, portami via. Che mi sento di morire. Se io muoio, everybody, everybody tonight. Performance by DJ Opus Remix.